Occhio alle preposizioni. A. Ascolta e controlla. Eleonora e Jenny parlano dell'estate scorsa e di Anne, un'amica di Jenny. Mentre Anne frequentava il corso, sua figlia Rosa è venuta a trovarla. Rosa è stata in classe con gli studenti e ha scattato delle foto a tutti. Anne ha raccolto le foto in un album e ha mostrato agli amici le foto che aveva scattato. Alla fine del corso, Anne e gli studenti della sua classe parlavano tra di loro in italiano. Anne è ancora in contatto con loro. Qualche settimana fa ha invitato una signora norvegese di nome Esther, che non era nella sua classe, ma abitava nello stesso appartamento. Esther si metteva spesso a suonare il pianoforte e le persone si fermavano sotto le finestre della scuola per ascoltare.